Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mes murs plus que il jamais. Drastico ritardo nell'iniziare questa trasmissione è dovuto al mio fisico sempre più minato. Lo sentite ormai un filo di voce. Io sospetto fortemente che qualcuno mi abbia fatto una frattura, o perlomeno penso che qualcuno abbia il pupazzetto che raffigura la mia effigie e ogni giorno infili uno spillone nella gola. Se questo io credessi veramente, farei parte della folta schiera di coloro che ogni giorno, nel razionale mondo in cui stiamo vivendo, ancora affidano gran parte delle loro sicurezze all'irrazionale. Sono tantissimi, sono un'infinità. Basta scorrere le televisioni dei canali più infimi nel senso che più lontani dai canali principali nel menu del vostro telecomando, non infimi come qualità, per vedere che ogni giorno ci sono infinità di maghi, chiromanti, astrologi, consiglieri, maestri di vita, persone che comunque in cambio di denaro vendono l'irrazionale, vendono il nulla. Ci sono stati grandi maestri nel passato rispetto a questa facoltà, questa capacità di vendere e di illudere le persone che si possa, muovendo i fili assoluti di ciò che non si vede, ciò che non è percepibile, ciò che non è oggettivamente registrabile, cambiare il destino delle persone. Io fondamentalmente non ho nessun pregiudizio di tipo razionalista. Io credo in tutto, credo in Babbo Natale, credo nella Befana, credo negli gnomi, credo nelle fate, credo negli elfi, credo nelle sirene. Ho visto talvolta centauri galoppare, quindi figuratemi se mi pongo il problema dell'irrazionale. Ma mi mette una certa allegria addosso pensare che ancora ci siano persone che elargiscono cospicua parte i loro averi a esseri totalmente imprevedibili e totalmente privi di ogni affidabilità. Mi basti guardare quelli che sono i più grandi luoghi del disvelamento della dabbenaggine umana, che sono Striscia la Notizia e alcuni servizi delle Iene. Vedere questi signori brutti, vestiti male, con le unghie lunghe, con la faccia scalcagnata, con la alopecia, con la forfora, e prendere queste belle polpose signore, come ho visto l'altra sera in un servizio, mi sembra, di Striscia la Notizia, e tentare di, in cambio di denaro, di toglier loro non so quale maleficio, quale artificio. Nel caso c'era andata una figurante di Striscia la Notizia, un'attrice, da un signore che sembra che togliesse addosso non so quale maleficio attraverso naturalmente l'imposizione delle mani. La maniera per effettuare comunque il sortilegio era di appecoronare la signora sul proprio lettino, saltargli sopra e dargli sonore e poderose palpate nelle zone molli. Nemmeno arrivava alla gloria dell'effrazione totale, già che c'era, no? Si limitava a dare qualche smucinata, come si suol dire alla romana. Beh, 800240024, questa mattina in cui io mi sento fortemente minato nel fisico e dovrei dare la ragione della mia carenza di voce a qualcuno che mi vuol male, all'indomani del solstizio d'inverno, notte fatale in cui molti di voi avranno fatto falò, saltato sopra fuochi, invocato streghe, demoni, bevuto pozioni magiche, compiuto accoppiamenti magico-rituali, fatemi sapere quanto ancora voi siete schiavi dell'irrazionale. Signori, allora, veloci, dinamiti e svelti! Perché? Perché con noi il grande maestro di vita, Don Nascimento! Buongiorno, buongiorno a tutti! I numeri sono altamente personalizzati. Ricercare i numeri fortunati non vuol dire prendere un libro, prendere una matita e dare dei numeri che vengono così alla casa. No, ricercare i numeri fortunati vuol dire tuffarmi dentro della vostra vita, del vostro destino. Mario Pacheco Donascimento arriva in Italia negli anni 90 e si stabilisce a casa di un sedicente marchese, Capra de Carré, che che lo presenta come suo cuoco e maggiordomo. Erano bei tempi in cui in televisione imperversava Vanna Marchi, Stefania Marchi e il mago Don Asimiento. Io già facevo questo mestiere e raccontavo la televisione ogni giorno, quella che avevo visto il giorno prima, e passavo intere giornate, interi pomeriggi a vedere la meraviglia, la fantastica maniera che avevano questi tre personaggi, poi giustamente passati a fil di spada dai rigori della legge. Il mago Don Asimiento si è dissolto in qualche maniera, non so, è risorto, è salito su una nuvola, è asceso ai cieli, non si sa bene, in realtà è fuggito col malloppo, lasciando parecchie persone con l'idea che forse qualcosa non aveva funzionato nella loro vita. Vanna Marchi e la figlia Stefania hanno avuto dei problemi con la giustizia, adesso mi sembra ci sia un'azione di risarcimento in corso alle vittime. Ma quanto sono vittime le persone che hanno dato decine e decine di milioni al tempo delle vecchie lire, in cui i soldi avevano un peso, avevano un valore, a una signora che strillava in televisione, che vendeva sale benedetto, che vendeva i numeri per il lotto? Ma nessuno si pone mai il problema: se qualcuno vende i numeri per il lotto per pochi euro in televisione, non farebbe prima giocarseli lui, diventare ricco e non perdere tempo a passare a strillare intere giornate? 800 24 00 24, fatemi sapere, soprattutto se qualcuno di voi pensa di avere questi poteri, pensa di poter in qualche maniera togliermi questo maleficio di dosso, chiami e mi salvi in diretta. 800 24 00 24. Parliamo del segno dell'Ariete. Il suo elemento è quello del fuoco, invece il rosso è il suo colore. Il nativo è molto proiettato verso il futuro, per questo ha una grande potenza energetica e molta iniziativa. Ariete, periodo giusto per trovare nuovi scopi lavorativi, ma anche per curare il corpo e la salute. È ideale iniziare oggi una cura. Non avete mai notato che i maghi, i cartomanti, gli stregoni, i venditori di felicità, i sanatori di ogni maleficio che si vedono in televisione sono sempre personaggi? Non parlo di quelli che avete sentito la voce, che non posso allucinare, che non ricordo e non riconduco a delle persone, ma in generale, se non dovesse dare una stigma generalizzata a queste persone, hanno tutti un'aura un po' sfigatella, è tutta gente un po' vestita male, sono tutte signore un po' abbandonate e infrollite, dalla tinta manufatta e poco curata, dalle dita grassottelle con degli anelli improbabili. Sono sempre persone che comunque ostentano una incapacità di essere felicemente allineate con un modello di saggezza, con un modello di sapienza, eppure hanno un grande successo. Francesca, buongiorno. Buongiorno. Puoi aiutarmi? No, devi aiutarmi tu, perché io sono molto emotiva. Comunque, come ho detto alla centralinista, io nel 1990-91 mi sono rivolta a una cartomante su consiglio di una mia amica, perché avevo problemi, diciamo, con mia figlia. Uscivo da una lunga depressione e volevo recuperare il rapporto con mia figlia. Ma ci sono medici specializzati in queste cose? Sì, ma io sono stata anche ricoverata in psichiatria, cioè... Ero già un po' matta, cure. Quindi era prevedibile, no, questa non cosa. Non ero matta, ero depressa. Vabbè. Comunque ero andata per questo tipo di problema e ho detto subito: io non voglio sapere niente riguardo a morti, minga morti, eccetera, eccetera. Ma vai oggi, vai domani, insomma, lei mi ha insinuato anche il dubbio che mio marito avesse delle altre donne, no? Beh, niente di più facile, scusa, qual è il problema? Sì, niente di più facile. Qualunque donna, se uno la guarda, viene lì depressa e tutto, che è stata ricoverata, la prima cosa che fa il marito si va a consolare con un'altra, non c'è bisogno di andare dalla cartomante. No, ma la mia è tutta un'altra storia. Beh, ma quanto ti ha succhiato di soldi per dirti queste... Guarda, nel 90 non è che succhia molti soldi, in effetti, e poi lei viene chiamata anche la fatina. Come viene chiamata? Paese. La fatina. Ma quanti anni ha questa signora? La mia età. Cioè? 67 anni circa. Lei ha lo studio pieno di diplomi presi anche negli Stati Uniti. Non ha mai richiesto molti soldi. Ma quanto, cioè, quanto intendi pochi soldi te? Quando c'era la lira metti 30.000 lire, ora 30 euro. Cioè, se è adeguata naturalmente a lei. Sì, vabbè, 30 euro non è che sono proprio una bazzecola. C'è chi dovrebbe, c'è chi lavora duramente per farsi 30 euro. Non è proprio. Quante persone al giorno riceve la fatina? Ne riceverà tante, perché è difficile trovare anche l'appuntamento. Più o meno di 10. Io penso che ne faccia una ogni tre quarti d'ora, dalla mattina fino alla sera. Ah, quindi mettiamo 10 persone per difetto. Poi non a tutti dà la fatturina, ecco. Ecco, che costa di più naturalmente la fatturina. Però no, hai capito cosa vuol dire? Vuol dire che sono già 300 euro al giorno, 3x7, 21. Non è proprio poco. Ma guarda che lei in effetti non fa cose brutte tipo malocchi, o anzi lei collabora anche con dei frati, non so di che paese. Ah, fa mettere frati la foto nell'acqua santa, cioè i frati sono diciamo una società, la fatina con i frati. No, guarda, io sono molto giuro. No, mi interessa. Cioè i frati gli prestano l'acqua santa per metterci dentro il... No, l'acqua santa te la procuri tu. E come si fa a procurarla? La fotografia tua la metti nell'acqua santa e dopo... Cioè la si va a rubare in chiesa? Come funziona? Sì, infatti una volta sono stata aggredita da un prete che poi è finito lui al manicomio perché mi ha visto prendere l'acqua santa e dice che non si fa. Rubavo l'acqua. Perché non si fa, scusa? Eh beh, che l'acqua santa è fatta per entrare in chiesa, si mette proprio nell'acqua santiera, su una porta fuori è un uso improprio dell'acqua santa. Ma se io ho una persona malata e voglio mettere la sua foto nell'acqua santa, chiama il prete viene a casa, gli dà l'estrema unzione, è una cosa normale, c'è un sacramento. No, vabbè, dai, si fa anche quando uno sta male. Vabbè, comunque ho capito il problema, Francesca, mi hai dato un quadro perfetto e completo del campione umano che volevo analizzare questa mattina. Ti auguro di superare i tuoi problemi. Se posso darti un consiglio, lascia perdere la fatina, perché non ti aiuterà a niente se non a peggiorare le cose. Cerca di stare allegra, non so che dirti, io non sono un maestro di vita. Sergio. Sì, buongiorno. Lei ha avuto un problema in famiglia? Sì, innanzitutto le faccio tanti auguri per la sua voce. Lo so, bastassero gli auguri, voglio un rimedio pronto e efficace, perché ancora è martedì, devo arrivare a venerdì. Sì, ho avuto un problema in famiglia perché in effetti... Scusi, mi schizzo la propoli, parli pure. Pronto? Sì, ecco fatto. Sì. Mi sono applicato la propoli alla gola. Ho avuto un problema perché ero sposato con una signora, con mia moglie, e avevamo una vita ragionevolmente felice, e poi questa mia moglie ha cominciato ad andare da una fattucchiera. Ma che problema aveva che andava dalla fattucchiera? Ma voleva parlare col padre morto 20 anni prima, e infatti la fattucchiera lo faceva parlare col padre morto 20 anni prima. Pagando si può parlare con chiunque, penso io. Ah beh, certo, sì. E quindi poi questa fattucchiera l'ha letteralmente plagiata, e alla fine, dalla sera alla mattina, senza motivi apparenti, perlomeno io non li ho capiti, non c'è stato nessun tradimento, mi ha cacciato di casa dalla sera alla mattina. Ma allora vediamo un po' di capire, sua moglie era facoltosa, aveva disponibilità di denaro? Sì, abbastanza. Sì. Perché sennò non c'era motivo, qual era il motivo? Quindi i soldi di sua moglie lentamente passavano nelle mani della fattucchiera, immagino. Sì, non sono mai entrato in questo merito perché... però quella era la prima cosa. Sì, era la causa scatenante, evidentemente. Sennò quale motivo aveva? Sì. E quindi adesso lei è fuori casa, il risultato. Sì, esatto. Poi ora piano piano mi sto rifacendo una vita. E la fattucchiera si è accasata con sua moglie, cosa ha fatto? Ma è diventata molto amica, poi i dettagli non li so e non mi interessano, però è diventata molto molto amica e vanno in vacanza assieme, sì, insomma. Può essere che siano una coppia anche, non lo so, ma te la pesca. No, questo non credo. No. Comunque diciamo che sua moglie adesso mantiene la fattucchiera, questo è il segreto. Sì, penso di sì, e mi meraviglio che, cioè, in Italia, in questo paese, in questo grande paese dove viviamo, abbiamo bisogno di Striscia la Notizia, e lo dico senza disprezzare questa trasmissione, no, per merita. Con grande abbiamo rispetto. Bisogno di Striscia la Notizia per andare a fondo ai problemi. Io posso dire un'altra cosa, Sergio, con grande serenità, capisco il suo problema. È una situazione veramente tragica, perché una moglie che scappa con un amante rientra nella norma, una moglie che lentamente viene turlupinata da una fattucchiera che poi gli si accasa e vive alle sue spalle fa ancora più male. Dicevo, comunque esiste, grazie a Dio anche una libertà di espressione. Una persona adulta, nel possesso delle sue facoltà, almeno oggettivamente, può far di sé quello che vuole alla fine. Certo. Se ne faccia una ragione, come se ne fa una ragione ogni persona per cui finisce un amore, non ci pensi troppo. Accade che in delle pieghe di debolezza particolare delle persone, gente con un mestiere, un acume e una furbizia e una capacità di conoscere le debolezze umane, sappia viverci come parassiti ci si annidi, e di questo fa il suo mestiere e la sua sopravvivenza. Grazie. Patrizia. Sono qui, dottore. Mi chiamo Patrizia, telefono da Modena. No, io oggi mi preoccupavo, dico che dirò stamattina che non c'ho voce. Posso anche stare zitto, perché vedo che abbiamo affondato il coltello nel burro. Direi per dire. Proprio di sì, sì, sì. Mi rendevo conto prima, quando parlava la signora, diceva che spendeva 30 euro per andare da una fattucchiera. Dalla fatina. Sì, dalla fattina, appunto. Io guadagno 30 euro per stirare 4 ore. Pensi un po'. E ho perso il lavoro, non ho perso l'amore, ho perso il lavoro, che in alcuni casi è molto più... Perché nessuno ha più bisogno di farsi stirare. No, adesso grazie a Dio ho trovato qualcuno che mi dà da stirare. Lavoravo in un'azienda che mi ha messo in mobilità, e quindi ho pochissimo da guadagnare. Perché non esiste più la figura della stiratrice a domicilio, nessuno più. Ma c'è ancora, grazie a Dio, qualcuno che... No, perché con tanti uomini single oggi che ci sono, se lei si organizzasse... Non trovo un granché, evidentemente non ho abbastanza. Ma metta un annuncio in internet, sia imprenditrice di se stessa. Non ho il computer, non ho nulla. Eh beh, però bisogna adeguarsi ai tempi, non pianga addosso. Bisogna adeguarsi, sì, però... Perché guardi, no, le dico onestamente... Una... Pagare, no, non è però, no, Patrizia, scusi, le dico onestamente, io non sono un mago né un maestro di vita, ma se lei si organizza, oggi è pieno il mondo di uomini che vanno... portano le camicie in tintoria, fra l'altro le rovinano. Lo so. Se lei si mette d'accordo, ma semplicemente nel giro minimo del suo condominio, stira le camicie, le lava, le ridà pulite, belle, profumate. Secondo me lei il mutuo se lo paga, mi creda. Speriamo, lo dico. Io mi auguro, farò così adesso. Ma invece che piangersi addosso, si è imprenditrice di se stessa. No, non mi piango addosso, tutt'altro. Lei ha un grande mestiere in mano, saper stirare non è facile. No, sono felice. Cioè, di l'unica operazione che un uomo da solo non riesce a fare. Le spiego, un uomo da solo può cucinare, può lavare, sì. può organizzare. Stirare è l'unica cosa, per noi è un limite invalicabile. Vero. Ha ragione, dottor Nicoletti. Io mi auguro di riuscire a trovare qualcosa senza andare dalle fattucchiere. Ma no, ma lei guardi in giro. Se quando vede gli uomini un po' sfigati con la camicia stazzonata, gli dica: guardi, io ti stiro la camicia, gli faccio un buon prezzo. Non è che ce la fa. Beh, ma lei con le fattucchiere ha avuto a che fare? No, assolutamente. Ah, vuole solo contrapporre. Contrapporre questa cosa proprio per dire che tutto sommato le persone che si sono rivolte alle varie Vanna Marchi, io non riesco a condannare appieno la signora Vanna Marchi. No, assolutamente. Non posso chiamarla signora veramente. Nel trionfo della giustizia, Vanna Marchi a suo modo svolgeva un servizio, dava possibilità di dar corpo alle proprie insicurezze a tante persone, però è giusto che sia perseguitata, perché sennò sarebbe troppo facile. Per l'amor del cielo, lei ha truffato, ha rubato, ha approfittato di persone che erano in quel momento in difficoltà. Però lei, scusi, ha detto 30 euro, lei... Io 30 euro 4 ore. Quante camicie stira in 4 ore? Oh mamma mia, non solo camicie, cose per bambini, vestiti, pantaloni. Ma usiamo la camicia come unità di misura, quante se ne stirano in quattro? Non ho mai misurato, dottor Nicoletti. Quanto ci vuole a stirare una camicia? Però ecco, io in 6 minuti stiro una camicia. Beh, quindi... è presto fatto il conto. Infatti. Ne stira 16, se non sbaglio, lei in un'ora? In un'ora, esatto, sì, esatto. Dipende poi se hanno molte pence, se sono... Comunque... Guardi, io stiro così per una famiglia che grazie a Dio in questo momento mi ha dato da lavorare, e a Modena sono felice, però mi manca il mio stipendio, mi mancano le... Vabbè, mie colleghe, si dia da fare, Patrizia, si dia da fare, Patrizia, vedrà che ci riuscirà. Francesco. No, sono Fernando. Fernando, va bene, è uguale. Fernando da Milano, è uguale, dai, non hanno scritto nulla. Francesco, figuriamoci. No, io quando sento queste storielle qua mi rido da solo, perché... Qualche anno fa è successo che mia moglie e mia sorella sono andate ad una cartomante. Quindi a un certo momento, non so, tutte le cavolate che si sono dette tra di loro, alla fine lei era curiosa con me. Io sono un po' niente, cioè, a parte il fatto, a me scappa da ridere. Allora ho detto: no, voglio parlare con suo marito. Alla fine era finire che lei mi chiedeva consigli come fare a rapacificarsi con un, perché aveva una relazione con un frate. Ma sempre i frati di mezzo, questa è la mattina dei frati. Cioè sua moglie aveva la relazione con un frate? No, no, no, no, per l'amor di Dio. Ah, beh, no, succede. la cartomante. Ah, la cartomante, dopo aver preso soldi da moglie e da sorella. La sorella, allora il giorno mi chiedeva consigli, mi chiedeva come fare per pacificarsi col frate. E l'ha chiesto soldi lei per dare questi consigli? No, per l'amor di Dio. E gliel'ha dato? Sì, sì, gli ho detto cosa da fare, cosa da fare. Cosa doveva fare secondo lei? Come ci si fa a riappacificare con un frate? No, nel senso che c'è, cioè, no, un frate le stirava le camicie, le stirava le maglie di lana. E quindi, detto, però, quando lei è passata non deve... le mutande, è scoppiato l'amore. Non, no, c'è qualcosa certo, che non capisco. Perché a un certo momento. È l'aspirina che mi dà la testa, mica ho capito bene. Scusi, no, perché razionalmente voglio capire questa storia. Scusi, ma sono. Allora, lei ha una moglie e una sorella. Esatto. Vittime di una cartomante. Esatto, sì. Che hanno speso soldi. A un certo punto la cartomante sì, certo. Dice a sua moglie: voglio parlare con tuo marito. Esatto. E viene da lei la cartomante. Com'era questa cartomante? No, ma sempre io stessa la stessa mattinata. Tutto in un giorno. E lei è rimasto solo con la cartomante? Sì, io sono rimasto solo con lei e lei mi diceva se ho bisogno. Ho detto: guarda, io non ho bisogno, avrà bisogno lei. La vedo un po' troppo triste. E lei però dammi un consiglio come fare a pacificarmi con un frate. Esatto, e quindi ho detto cosa doveva fare. E cosa doveva fare per appicciarsi col frate? Allora, date che lei era molto ossessiva e quindi rompeva le scatole ogni 30 secondi, ho detto io, deve essere molto più calma e più cauta. Farsi desiderare. Perché... Esatto, farsi desiderare un attimo da frate, altrimenti diventa una cosa... E il frate cadrà ai suoi piedi, chiederà la sua mano. Molto chiaro, molto bene, questa mattina devo dire che la propoli e l'aspirina hanno funto da allucinogeno. Non mi rendo bene conto della trasmissione che sto facendo, però mi sembra che stia funzionando. 800 24 0024, a tra un istante dopo le informazioni della borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Sono Alessandro Mai, cartomante di YouTube. Chi ha ucciso Sara? Vediamo un po' cosa mi dicono le carte. Io estrarrò 3 arcani. Allora abbiamo un 10 di denari uscito in prima battuta, abbiamo un 8 di bastoni uscito in seconda battuta e abbiamo un re di spade. Guardate, voi direte re di spade, l'uomo è stato il padre. Ragazze, io qua semplicemente vedo una combinazione di fattori che riguarda entrambi questi due volta gabbana. Guardate, sono usciti qua, sono due, sono stati loro. In primis Sabrina. Adesso non faccio tempo a spiegarvi il perché, però fondamentalmente lei... 800 24 0024, questa mattina stiamo sondando la fortuna dell'irrazionale nel nostro mondo fatto di certezze, fatto di regole, fatto di cose concrete che tutti vogliamo toccare, ma guardate, saranno gli effetti collaterali del propoli misto a aspirina effervescente, ma questa mattina ho sentito storie medievali, frati, acqua santa, stiratrici, vecchie megere, maghe, fatine, c'è di tutto, e questa in fondo è anche l'Italia. E anche l'Italia, sentite, il cartomante su YouTube azzarda ipotesi sul caso Sara Scazzi, di cui dopo mesi e mesi di iperesposizione televisiva non si sa assolutamente nulla, ma anche dalle parti della ragazza scomparsa a Brembate, Iara, sento stanno arrivando medium, fattucchieri, maghi e sensitivi. Quando si fermano le capacità tecnico-scientifiche, razionali di trovare la verità, ci si affida ai maghi, come accade in Rashomon, l'immortale film di Kurosawa, che a un certo punto, quando della donna uccisa nessuno riesce a dare una giusta e concreta ricostruzione, si chiama un medium e si fa evocare il fantasma della donna uccisa, ma anche lei avrà una versione diversa rispetto a quella di tutti gli altri, perché ci sono tante verità, non c'è una sola verità. Lino, buongiorno. Buongiorno. Tassista. Tassista, sì. E la mia testimonianza ha il valore che può avere, perché io sono un non credente razionalista, quindi... Non ho pregiudizi, io comunque... Pronto? È vivo? No, appena detto non credente razionalista, è arrivato un fulmine, si è aperta una nuvola, è stato fulminato. Lo so, succede. Teresa, buongiorno. Buongiorno. Allora, Teresa è un'ascoltatrice esperta di tarocchi, esperta in magia bianca, che questa mattina ci può raccontare la magia delle polpette, che è stato detto è una cosa molto complicata. Sì, vabbè, diciamo che io ho frequentato l'esoterismo durante il periodo dell'adolescenza, iniziata da una tata lucana. E ovviamente culturalmente, diciamo, la mia oggi cultura... c'è tata Lucia e allora c'era tata Lucana. Tata Lucana, esatto. E io non mi sono mai avvicinata a questa realtà di fattucchiere, maghi, perché comunque non mi sono mai sembrati, diciamo, abbastanza esperti. Ho affrontato la cosa leggendo molto e divertendomi anche tantissimo, perché poi la magia bianca è una magia che si basa fondamentalmente sugli elementi della natura. Per esempio, stanotte non c'è luna ed è un momento molto propizio per fare sortileggi. Fondamentalmente la magia bianca fa dei sortileggi d'amore, mai fatture o cose comunque negative. Beh, però una delle prime ragioni per cui vanno dalle fattucchiere è proprio per storie d'amore infelici o per tormenti amorosi. Il primo motivo è quello: portano i pantaloni del marito, le mutande della moglie, le canottiere del nonno, cose per capire e vedere ci sono segni comunque del tradimento e via dicendo. Sì, addirittura io mi ricordo su questo libro molto carino di magia c'era la fattura per capire se un uomo che è infedele, dove bisognava non tagliare ma strappare 3 peli della barba dal lato sinistro, quindi se l'uomo non aveva la barba o comunque strapparli, insomma, una cosa abbastanza difficile. Beh, si va su altri peli, ce ne sono tanti nel corpo. Cioè, comunque divertenti, perché poi comunque bisognava fare le fatture con le rane. Ma allora, secondo lucette. Te, scusa Teresa, per aprire uno studio di fattucchiere chiromante basta leggersi qualche libro? Ma bisogna avere, io devo dire che sono una credente irrazionale o irrazionalista, per cui... Sì, ma non ci gira intorno, per sapere, la magia delle polpette, l'hai fatta, che cosa è? La magia delle polpette, dunque la magia delle polpette è una fattura d'amore, un filtro d'amore, si cucinano delle polpette di carne. Carne ovviamente. Tritata normale. Carne tritata normalissima. Col pan grattato e l'uovo, solo carne? Carne e uovo ovviamente, certo. Uovo, poi se uno vuole ci mette il pan grattato, se le fai al sugo non senza pan grattato. E la cosa carina era che bisognava, dopo aver preparato queste polpette, spargerle, diciamo, sul corpo, e il libro raccomandava che fossero ben presenti gli umori, diciamo, gli umori della donna andavano, diciamo... Sì, però sulla famiglia che le polpette erano già cotte col sugo? No. Crude prima di cuocerle. Ah, quando sono ancora rosse? Ancora carne. Rosse, vanno passate sul corpo impegnandole bene degli umori. Cioè con le ascelle sudate, esatto, cose. Possibilmente. Che più umori vengono, più la fattura riesce. Dopodiché impregni ben bene dei tuoi succhi privati queste polpette. Esatto, poi... tutto questo ovviamente recita il libro, che va fatto quando l'uomo è presente nella casa. Vabbè, se non chiama l'ambulanza, cioè l'uomo assiste a questa cosa? No, l'uomo no, e questa è la tragedia, perché quando lo feci io dovetti rinchiuderlo in una stanza con una scusa, e si guarda, aspetta un attimo qui, presi queste polpette in cucina, fece tutta questa ambaradana abbastanza anche di fretta. Cioè tu ti sei ignudata e ti sei cosparsa di polpette? Ero piccola, ero molto giovane, ero adolescente, è perdonabile questa cosa. E dopodiché la cosa più allucinante è che dovevo andare per 9 volte, diceva, da una fonte all'altra, quindi io andavo dal rubinetto della cucina al rubinetto del bagno, recitando una frase che diceva che tu, tizio Caio, possa non dormire più, pensare solo a me ogni minuto del giorno e della notte, eccetera, eccetera. Questo per 9 volte, andando con questo vassoio da una parte all'altra. Però devo dire che è riuscita. Cioè, riuscita in che senso? Cioè, che quest'uomo ha mangiato le polpette. Beh, c'era solo quello a pranzo, scusa. Sì, no, cioè, le polpette con l'insalata, ma non è importante. L'uomo, con l'insalata, non so. E con l'inzuppata, che non è poco. Non so se perché le polpette erano buone, oppure perché... Ma è tu che buon saporino che hanno queste polpette oggi. Non me lo ricordo che prima tu le avessi mai avute. Cosa? Quel bel saporino sulle polpette. No, evidentemente era un sapore appunto particolarmente... Sì, ma poteva anche assaggiarselo senza polpette, scusami, adesso non voglio entrare in particolari. Lo so, vabbè, ma io in quel momento ero, come dire, ero volevo sperimentare queste cose qui. L'ho fatto per tanti anni, l'ho fatto anche per terze persone, però per esempio una ma cosa funziona che... anche con gli spiedini, le cotolette, o bisogna essere no, solo con le polpette. Io non ho mai, diciamo, cambiato ricetta, perché comunque bisogna seguire. Il venerdì uno può farlo col pesce, no? No, non credo, con le spine. Però ce n'era c'era un'altra fattura molto carina con il limone e gli spilli, che una mia amica invece fece in maniera, la fece con gli aghi, e si svegliò praticamente tutta insanguinata perché gli aghi che doveva tenere insieme al limone sul petto. Come sul petto ci smette un limone con gli aghi? Sì, sì, sì. E poi? Con gli aghi si prende questo limone, si mettono degli aghi che devono essere, mi sembra 21, che quanto sono i numeri degli arcani maggiori, a forma di croce. Poi bisognava prendere un filo di seta e anche questo filo andavano fatti 9 nodi e per 9 volte. E questo limone dove si metteva? E si teneva sul petto, sul cuore, quindi dalla parte sinistra, per 9 notti e per 9 volte al giorno. Ma alla fine puzza il limone, si marcisce. Diventa duro, no, diventa solo duro. Diventa duro, vabbè, se quella è la speranza che vi serve. Vabbè, Teresa, ho capito. Comunque, queste cose le facciano normalissime ragazze, studentesse di buone famiglie, quindi non sono rituali che affondano le radici in tribù abbandonate in qualche foresta pluviale. Quindi sono cose che appartengono alla nostra civilizzazione. Michele. Oh, buongiorno. Ecco, si è fatto una cultura stamattina, Michele. Senta, io volevo raccontare velocemente la mia storia, perché adesso mi metto a ridere a sentire queste cose, perché come ha detto lei, ognuno può fare come vuole, però... Allora, adesso io ho 51 anni, 30 anni fa due figli piccoli e la moglie che era in crisi, poi ho capito che aveva un altro. Sono andato da una fattucchiera, no? E mi ha fatto girare 2 o 3 settimane con un limone in tasca. Ah, vedi, quei limoni vanno molto. Poi col sale, ma senza spilli. Alla sera di buttare il sale dietro, sa, quando uno è in crisi si attacca tutto, come lei sa benissimo, io mi ero attaccato a quello. Mia moglie, quando ha visto il limone, che se ne è accorta, forse ho peggiorato le cose, ha fatto che buttarmi fuori di casa davvero. Gli ha dato una scusa per buttarlo fuori. Sì, esatto, va bene. Poi il cartomanti, non cartomanti, no no, ma ritorna, stai tranquillo, no no, spendevo a quei tempi là 20 o 30 mila lire per volta, avrò speso, diciamo, 500 mila lire in tutto. Ma come le veniva in mente? Mia moglie è scappata con l'altro, mi ha buttato fuori di casa, sono stato 10 anni da solo, poi ho trovato una ragazza fantastica, extracomunitaria in più, abbiamo una bambina di 3 anni che è fantastica, che lei in più, essendo africana, conosce il voodoo, queste cose lì, si è messa a ridere. Quindi ce l'ha già in casa la fattucchiera, non c'ho più bisogno di pagarle altro. No, ma si è messa a ridere anche lei sentendo le storie. Comunque, ha mai chiesto a sua moglie di fare una pratica voodoo, no? No, lei ci crede benissimo, mia moglie. Beh, lei è fortunato, lei pensi, quando lei morirà, sua moglie la fa ritornare come zombie, quindi non ha problemi. L'avrà sempre vicino. No, era solo per dire che quelle cose lì non ci credo più, e neanche mia moglie di adesso crede nel voodoo, ma non crede in queste cose. Eh certo, il voodoo è una cosa seria, queste invece sono bazzecole. Grazie, la saluto, arrivederci, a tra un istante dopo l'informazione del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Signora, voi volete la verità? Sì. Volete le bugie, le cretinate che dicono gli altri, o volete la sincerità? Qui ci sta una donna, vostro marito vi ha messo le mani addosso una volta, signor? Vi ha messo, vi ha picchiato qualche volta, signor? Sì. Ha rotto una volta il vetro della porta del bagno, ha rotto dei piatti quando stava a tavola, ha alzato la tavola in cielo, fu sì. L'ha fatto qualche volta? Sì, qualche volta. E io vi sto dicendo che vostro marito non è felice, però voi non lo perderete. Però signor Cornitnit, il corn che ella nessuno vi leva. Questo è uno dei tanti consiglieri, maestri di vita, di cui la televisione fa grande saccheggio nei suoi palinsesti pomeridiani, mattutini. Donne sole a casa, uomini che magari stanno tristemente davanti al televisore e non hanno altre risorse per uscire dal loro grigiore, guardano, vedono, provano a telefonare. Molte volte il mago nemmeno sta in diretta, risponde un centralino, poi lo richiamano, insomma, sempre in maniera per prendere soldi. Abbiamo sentito delle testimonianze dirette di persone, non avrei immaginato questo tipo di reazione, avrei immaginato qualcosa di un pochino più ironico, un pochino più distaccato, che poi realmente, concretamente, come se fosse qualcosa oggettivamente riscontrabile. Ripeto, non voglio fare il bravo ragazzo che crede soltanto in ciò che è razionale, che è un mito del razionale, nella mia percezione può entrarci qualunque cosa può darmi sorpresa e posso dargli realtà e efficienza, ma è l'aspetto scalcagnato di questa sorta di magia di basso conio, di persone che chiedono soldi in cambio di malefici, di artifici o di medicamenti, che mi farebbe sospettare che in realtà è una grande, divertente, se uno vuole, ma anche triste farsa. Sentiamo Lino. Lino, buongiorno. Buongiorno, ora mi sentite bene? Ah, il tassista, sì, l'abbiamo ripresa, certo. Allora, io ho portato un celebre mago di Genova, no? Sì. E che mi ha magnificato le sue attività, per così dire. E a un certo punto gli ho detto, ma scusi, perché allora voi maghi non le applicate su voi stessi, come diceva lei prima? Certo. Ecco. E lui mi ha semplicemente risposto, perché su di noi non hanno effetto, l'automagia non ha effetto. Ah, ecco, vedi, bella risposta, vedi. Non l'avrei mai immaginato. Questo qui detto da un tecnico del, sì, ma scusa, del ramo. Ho capito, lei parlerà probabilmente, visto che parla in terza persona plurale, del divino Thelma, mi sembra di immaginare, non è che è impronunciabile. L'ha detto lei, non l'ho detto io. Sì, perché lei teme che gli mandi adesso un anatema perché ha rivelato questo, chi se ne frega, scusi, ma ci vuole altro. No, scherzo, scherzo, sì. No. Però era lui, vero? Comunque è lui, certo. è lui. No, vabbè, il divino Thelma è divertentissimo quando Luca Telese nel suo programma non sapeva che bisogna rivolgersi a terza persona plurale, dice, ma voi chi? Quando lei dice voi chi? Dice, noi, lei non capisce, quando siamo noi, erano loro i divini Thelma. Però guardi, io avrei risposto, divino Thelma, voi semplicemente vi mettete d'accordo con un amico, dice oggi ti faccio guadagnare 6 fanta miliardi di euro, poi me ne dai soltanto uno e sei felice, quindi è facilmente aggirabile la cosa. Chiaro, l'automagia non funziona, ma la magia al vicino di casa che in cambio ti può dare qualcosa potrebbe funzionare. Marco, buongiorno. Buongiorno. Sì, ho chiamato per questa cosa del Gran Bicin dei Celti. Cosa ha fatto lei? Praticamente io sono un militante della Lega Nord da tanti anni, a un certo punto avevo grossi contatti con Bossi, c'è una leggenda celtica di cui questo Gran Bicin è il punto centrale. Che no, non capo... so niente, Gran Bicin cos'è? Scusi, Gran Bicin è una maledizione che i Celti facevano ai sovrani. Quando, come si chiama la maledizione? Glam di Cin. Ah, Glam di Cin, ecco. Cioè ci si trova in numero dispari intorno a un cespuglio di biancospina, una cosa un po' druidica, cioè sì, si... certo, e praticamente si dicono delle formule, ognuno liberamente. Ma lei la conosce la Glam di Cin? Beh, io l'ho fatto, cioè oltretutto gliel'ho pure scritto in un fatto. L'ha fatta io contro Bossi? Sì. E perché scusi, lei della Lega, perché l'ha fatta contro Bossi? Ma perché lui, secondo me, non mi rispondeva, non faceva le cose che dovevano essere fatte. E gli ha mandato un anatema. Mi ha mandato la stessa tema e dopo 2 giorni c'è avuto quel problema che tutti sanno. Eh beh, scusi, ma non lo dica manco perché... No, ma io lo dico perché questa è una cosa che tutti possono valutare, cioè ci sono le forme. E poi l'ha detto a Bossi, lo sa Bossi questo. Ma io non lo so se lui lo sa, io gli ho scritto che lui come sovrano, di solito dicevano le leggende che quando uno gli faceva sta cosa gli veniva un foruncolo sul naso e lui non poteva più uscire in pubblico. Beh, ora è chiaro che... Poveraccio, ha avuto un problema grosso. Non... Ma difatti poi lui aveva fatto anche un'altra cosa che voleva togliere l'uno per mille alla chiesa, per cui può darsi che ci siano degli anatemi molto più potenti dei miei. Ah, le ha mandato gli anatemi anche i preti. A lei, a questo diciamo universo di riferimento in cui le persone che i cui politici non seguono quello che secondo loro il programma che sono impegnati a seguire, possono mandare o la Glam di Cin, sì, o sì, l'anatema. Io penso che la sovranità nel mondo dei Celti prevedeva delle cose un po' magiche, di sconoscimento di questi. Ma lei dove l'ha imparato? Dove l'ha preso questo sorta di... Sui libri dei Celti, cioè su tutte le librerie, sul mondo magico dei Celti, che poi è quello di cui parla anche Harry Potter in fondo, cioè. Sì, ma se fosse così di... facile, scusi, tutti staremmo a casa dalla mattina a sera a fare la Glam di Cin a ogni persona. Ma anche andare in America sembrava che fosse facile, però poi dopo c'è voluto Colombo con tutte le traversie. Ma in quanti eravate a fare questo sortilegio contro Bossi? In 3. Volevo capire come vi siete organizzati. Oggi facciamo l'anatema contro il capo, perché qual era il motivo? Ma perché praticamente secondo noi non stava più adempiendo, non era secondo lui. Ma secondo me lui Lui ha avuto paura, cioè quando è successa la storia di Falcone e Borsellino. Vabbè, quella è un'altra, adesso non entra, voglio la cosa, no, che mi interessa. Stato proprio, ma guarda che ha cambiato completamente comportamento. Vabbè, quello è un problema vostro, non è un problema mio in questo momento, l'ortodossia di Boss rispetto ai suoi seguaci. Voi lo avete deciso, allora gli lanceremo l'anatema, questo avete deciso. Sì, ci siamo trovati, abbiamo fatto questo grande cin dicendo queste formule che erano molto chiare, cioè dicevano che il capo si renda conto che non si sta comportando bene, di qua di là. E poi successe quello che successe. E quindi il mastro doveva essere un foruncolo? Sì, doveva succedere con un foruncolo, non è che, cioè, non gli augurava. La semiparese è venuta lì, altro che avete esagerato. Ma secondo me c'è di mezzo anche la storia dei preti con la storia dell'uno per mille. Ah, dice, è stata un'azione combinata. Voi Celti con la grande cin e un altro prete per l'uno per mille, altro che foruncolo è venuto. Vabbè, io vi lascio alle vostre speranze e vi saluto. In questo momento però devo introdurre un ospite, gli ultimi due minuti di questa trasmissione faremo con una persona che è di passaggio soltanto. Reduce dal faro di Capo Finisterre, dove è andata a trovare Barbara Alberti, come sapete l'Alberti da vari mesi, la scrittrice Barbara Alberti, è chiusa nel faro di Capo Finisterre. Voi la sentite tutti i sabati, tutte le domeniche con la guardiana del faro. Tra i personaggi che intervengono, entrano, escono nell'immaginario della guardiana del faro c'è Maria delle Acciughe. Maria delle Acciughe questa mattina è di passaggio, perché tornando da Finisterre sta tornando verso la terra natale, in questo studio. Maria, buongiorno. Buongiorno. Ecco, Maria, casualmente sei voluta entrare nel nostro studio, Maria delle Acciughe, perché anche tu non lo immaginava, non lo immaginava nemmeno Barbara Alberti, ti dedichi alla magia. Sì, infatti ti ho portato un po' di colatura di alici per guarirti. Gli impacchi di alici per la mia voce. Qual è, dimmi, l'ultima magia che hai praticato? Ma stai parlando seriamente? Sì, sì, sì, sto parlando seriamente. Tu ci credi? Sì, io ho una amica maga che si chiama Bettina a Milano e poi a Roma ho Maga Marcella. Ma a Milano ci vanno le signore della Milano Bene? Sì. Sì, sì, molte sì. Signore altolocate, molte di signora, cui non possiamo fare una, i nomi. Ha una casa bellissima, ci credo. Sta veramente bene, io vado anche per quello. Qual è, dimmi qual è l'esempio che ti ha fatto? E lei, per esempio, a volte mi chiede, ma tu vuoi che lasciamo tutte le carte oppure tolgo le brutte? Quanto ti scucio ogni volta? 50 euro. 50 euro. Meno di uno psicologo. Beh, cioè sì, però lo psicologo forse è un aiutino in più. Io sto molto bene, sto meglio. E cosa ti ha fatto fare adesso? E ha una tantissime foglie d'alloro. Tutte legate, tutte legate. Sta davanti al microfono, sta ferma. Dai. Tutte legate una all'altra e ne stacca una e la brucia. Poi dipende, le volte brucia fortissimo e quindi la magia. Ah, da come riesce. Brucia la foglia all'alloro, sì, capisci? Sì. E delle volte invece brucia male, scoppietta. No, poi ti legge basta le carte. La bagni un po', scoppietta, chiaro. Poi puoi fare delle domande. Risponde anche a delle domande secche e poi puoi decidere se lasciare tutte le carte nel mazzo oppure togliere quelle più e brutte. E cambia il prezzo? No. Beh, 50 euro non è in fondo tanto. Quante volte ci vai te? Una volta al mese, non vabbè, di più. Beh, poi, non è tanto. Poi c'è la mia amica Valeria invece che fa il pendolo, che anche quello lì è divertente, con tutti con i campi magnetici. Dice. E tu ci credi? Io ci credo. Va bene, sono contento che qualcuno abbia delle certezze, abbia delle credenze invalicabili e indiscutibili. Io in realtà i miei dubbi alimentano ogni giorno la mia esistenza e minano fortemente la mia salute. Grazie Maria delle Acciughe, ci sentiamo domani. Grazie. Alors tous deux on est parti dans tourbillon la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.